Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te, ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te, ti prego! Ne ho bisogno! Dentro quella piccola anima blu. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Questa storia del coronavirus è una questione politica. Ho detto politica e dico ancora politica. Due authority che hanno sanzionato Panzironi per esercizio abusivo della professione medica. Ma quello medica. È un altro discorso, basterebbe, dai, su. E hanno detto che ma quindi non potrebbe andare lungo, in onda. Quello è un discorso se, lungo, no, dai. Ma è tutto lungo allora. Lui ma premette sei tutto il lungo. Fatto di allora, non essere un medico. Hanno anche richiamato la tua televisione dove lavori da 7 per averlo ospitato in 2 trasmissioni di Giletti. Ma quella è un'altra sbagliato. Questione. Sbagliato! Ah, sbagliato! Ma non telepromozione. Quella è un'altra questione, perché ci lavora Parenzo. Gli altri lo possono prendere in culo, i piccoli, ma la televisione dove lavori tu no. No, no, ragazzi, sono due cose diverse. No, sono diverse, sono due cose diverse. Ti sto cercando di spiegare che se vuoi saperla tu. Aspetta, dai, fammi sentire. No, sei un povero imbecille. Dimmi, però dai, perché non sai le cose. Così, un conto. No, ma è perché è una testa di cazzo. Brudi far polemica, dice stronzate. Qual è il punto? Allora, allora, se vuoi saperla tutta, io alla 7, io non l'avrei invitato, ok? Vuoi saperlo? Io in onda non l'avrei invitato. E allora vai a fare in culo. Brutto idiota, imbecille, grassone di merda. Ma perché? Grassone di merda. Perché? Io non l'avrei invitato perché è una testa di cazzo. Senti, perché insinua sempre che io un conflitto di interesse. Sei una povera merda umana per avere visibilità. Sei una povera merda umana. Sei una merda umana. Hai avuto la tua visibilità. Ti conoscono tutti ormai. Gottardo il coglione. Gottardo il coglione. Allora, io personalmente non l'avrei invitato. Ti basta? Brutto imbecille, bene, ti basta? Io personalmente non l'avrei. Finalmente la puttana che c'hai in testa, brutto coglione di merda. Dai, tu e la tua visibilità. Sei felice che ti conoscono tutti come il coglione? Dai, sei felice ora? Michele da Parma. Molto bene. Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Ciao. Cosa? Quando? Jesus. Questa, la responsabilità è tutta il signor La Corte, eh. No, ma è la bellissima, non bellissima, la responsabilità chiarisce tutta, no, ma il signor fatto bellissimo. La Corte chiarisce io bene chi è il morto di fama, lo capisce benissimo, infatti, certo. Sono è uno che è diventato 3... famoso per sono parlare le delle mutande 38. Col buco della moglie. Sono le 18:38 in collegamento da Roma, è bello. In collegamento, ciao, da Roma, ragazzi. David Parenzo, eccolo qui dal suo bunker. Qui siamo ancora all'attacco, qui dalla postazione di via Monterosa, finché ce lo consentiranno, finché le leggi lo consentiranno. Scivola tutto addosso, ovviamente, a Padova, dalla redazione, certo, di Radio Caffè, Alberto Gottardo. Eccolo qui. Fino a quando il tribunale parenziano ci permetterà di essere in onda. Allora, ragazzi, il protagonista di fama. Oh, dai, eccolo, ma non fa più ridere. Il non protagonista ridere di oggi, dai. Ragazzi, il protagonista di oggi. Tornate sul pezzo, però non pensate, io non è che sto penso tutto il giorno, che cazzo ne so, ai miei nemici o ai miei ma avversari del momento, del momento. Io penso alla figa di solito, per sì, esempio. Quello non c'è dubbio. Mi sembra più concentriamoci costruttivo su questo programma e passiamo subito all'attacco col signor De Luca. Ragazzi, ma perché secondo voi non hanno attribuito a questo signore qui il massimo dei poteri? Cioè, perché non danno tutto il paese Luca, in mano? Plenipotenziario. Ma ragazzi, ma questo ci vorrebbe. Ma diciamoci la verità. Chi è che parla pensa più chiaro? Salvini. Conte. Pensa il signor Conte. I poteri. Cioè, il signor Conte è andato a dire, fino all'altro giorno, ho ripescato un audio di un programma dalla Gruber, credo, un mesetto fa, che l'Italia era il paese più preparato, all'avanguardia. Abbiamo il top dei morti. Un record, quello dei morti, della gente che crepa in Italia. In Italia. Non eravamo preparati. Non eravamo preparati per un cazzo. Probabilmente nessuno era preparato, non lo so. Però un dato di fatto è che non eravamo il paese ospedali, più preparato. Forse anche certamente, alcuni ospedali non hanno rispettato non i protocolli dubbio, però non, forse, ma non è che siamo i più preparati, non è che siamo all'avanguardia. Siamo lì, non vi preoccupate, il virus non arriverà. No, non è stato così. E qualcuno prima o poi pagherà per questo. O non pagherà, cazzo. De Luca. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Incredibile. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. È incredibile. Comunque, ragazzi, a parte la follia di chi chiede di fare delle feste di laurea, di chi fissa delle feste di laurea, l'idea di una festa per il raggiungimento della fine dell'università, cioè della laurea, con lanciafiamme, poi alla fine non è manco male, diciamo. Potrebbe essere un'idea, festa di laurea. Comunque 627 con lanciafiamme. Morti. Sì, ma lo sappiamo, festa l'abbiamo già dato, appunto. 627 morti. Ma la gente è matta. Solo un'influenza. La gente si è sposata. Qualcuno diceva qui che era solo un'influenza, qualcuno qualche tempo la fa. Gente. Nessuno ha mai sostenuto che fosse solo un'influenza. Molte persone, Sgarbi per esempio, Sgarbi. Allora, chiudere tutto e militarizzare, non è Sgarbi ma è De Luca. Militarizzare, lo dico da giorni, giustamente De Luca lo dice pure lui, probabilmente non ha sentito un cazzo, ma non fa niente, non è che lo dico io che sia una cosa così strana. Militarizzare l'Italia, abbiamo solo questa speranza se abbiamo imboccato questa strada. Se la strada imboccata è questa, cioè quella della repressione di ogni movimento, se non necessario, bisogna militarizzare, no, bisogna avere allora i carro armati. Il piano logico. Sono ma il piano logico è per forza, io non so se servirà, non so se funzionerà. Se la imbocchi, per forza, corri tutta ancora quanta. Oggi stiamo discutendo, il governo sta discutendo su quando aprire i supermercati, a domenica, il sabato, quello chiuso, quell'altro aperto. Sono chiusi, in Veneto, ragazzi, sono chiusi da domenica, ma la gente, in Lombardia sono aperti. L'incertezza ha portato la gente a fare delle file, oggi vedevo venendo qui, delle file che non c'erano ieri, non c'erano oggi. Perché quando tu dai delle informazioni del cazzo, non sei chiaro, dici no, forse decidiamo stanotte, no, domani mattina. Al di là delle informazioni, dai. Giuseppe, se tu tieni aperto su 7 giorni o su 6, si raggrupperanno di più su 6 o su 7. No, ma non c'è dubbio. È evidente, non c'è dubbio, no? Non, proprio non c'è alcun dubbio. Vai, De Luca. Io ritengo che sia arrivato il momento, per la verità, per quello che ritengo io, era arrivato già 2 settimane fa, per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Beh, ragazzi, quanto mi entusiasmo, mi fa venire la pelle d'oca, De Luca. Cioè, secondo me a De Luca vanno dati pieni poteri sull'intera nazione. Cioè, ma tra lui e Trump, per esempio, io chi sceglierei? Ma non avrei nessun dubbio, pur essendo io un tifoso, ma insomma, in realtà poi mi ha deluso per alcune cose, ma insomma, sono stato, non c'è dubbio, c'ho qua la gigantografia, un simpatizzante di Trump. Però posso dirti una cosa, De Luca supera tutto, c'è il decisionismo, non gliene frega un cazzo, non ha niente da perdere. Non... Vabbè, sì, sul c'è coronavirus cosa Trump figli. Non è che ha fatto delle cose proprio chiarissime, no, pure anzi, lui, sul coronavirus. Tutt'altro, anzi, andatevi a vedere. È un eufemismo, no, diciamo. No, no, ha fatto un disastro, assoluto. Oggi chiudono New York, la California è praticamente tutta bloccata e lui fino all'altro giorno minimizzava, non c'è dubbio. Intanto da Brescia sono partiti verso Trump 2,5 milioni di tamponi. Sì, anche se intanto. Quella è una polemica che non funziona troppo, perché pare che in realtà, vabbè. No, qualcuno dice ce n'erano e senza. Giustamente quelli vendono all'America, l'America li chiede, un'azienda, che cazzo deve fare un'azienda, non deve vendere quello che ha. Un'azienda esporta, scusa, la serie in questo momento. Altri hanno requisito tutto, noi facciamo le esportazioni. Però non mancano i tamponi in Italia. Se mancassero se non mancavano i tamponi, quelli giustamente vendono, che devono fare? Poi uno può dire, il governo potrebbe prevedere, che ne so, un bisogno di tamponi e bloccare la vendita, può darsi, non lo so, ma intanto ma quelli sono vendono. Sono le mascherine che mancano, no, i tamponi. Vai con le De Luca, no, anzi De Luca, vai De Luca. Se c'è una pattuglia, questa pattuglia deve avere i poteri per dissuadere le persone incivili. Poteri significano sanzioni pecuniarie, significa sequestro della macchina sulla quale vai girando senza motivo. E qualche intellettuale storce il naso, dice De Luca, qualche intellettuale storce il naso. Quando uno adopera in Italia questa espressione c'è sempre qualche scienziato che comincia a storcere. Che significa militarizzare? Significa che se abbiamo deciso che l'obiettivo vitale per l'Italia è contenere il contagio per evitare di contare a migliaia i nostri morti, se questo è l'obiettivo, tutti i corpi dello Stato devono essere funzionalizzati rispetto a questo obiettivo. Dimmi se non è il numero uno. Poi ha detto anche un'altra cosa: le norme confuse, che è quello che io vado dicendo da giorni, penalizzano le stesse persone. Dunque la colpa, sì, poi ci sono gli idioti. Poi vi faccio un elenco di cose che hanno scoperto. Anzi, ve ne dico solo una. A Settimo Torinese hanno scoperto 30 rincoglioniti che sono andati a fare una messa in una cantina, in un posto. Cioè si sono riuniti per fare però. Messa. Certo, esatto. Ma loro sono rincoglioniti. Ma in questo caso, scusami, però non è la passeggiatina. Se non puoi fare assembramenti, no, certo, con le persone, infatti, ma non questo è che qua è criminalità pura. Cioè questo non è, cioè questo non c'entra la passeggiatina che ti è consentita o forse non ti è consentita, eccetera. Esatto. Questo è un altro discorso. Questi qua, perché dice che avevano bisogno di Dio. Avevano bisogno di Dio, siccome le chiese sono ma questa chiuse, è coglionaggine. Certo, ma come, scusami, quelli sì. Che da Milano, quelli malati, che da, i ragazzi universitari che da Milano sono tornati in Puglia, ad esempio, che adesso con la minacciano febbre, la sanità e ora pugliese. C'è il 15 minacciano la sanità e adesso pugliese. C'è il 15. Sì, ma chi gli dice la testa a questi? Cioè sì, perché devono non andare da mamma che gli fa la minestra? In questo caso non l'ha impedito, però se è stato, no, tu, ma che non l'ha impedito, anche se bloccavi, no, i treni, un decreto. Se bloccavi i treni, ma scusami, dopo due giorni, ma perché devo bloccare i treni perché ci sono quattro imbecilli? Ma non è 4, che blocco la trasmissione perché detto. C'è il morto di fama. Non blocco la trasmissione perché c'è un morto di fama. L'immagine della stessa. Siccome c'è Gottardo, non è che uno blocca la trasmissione. C'è un coglione, non blocca una trasmissione. Ma te lo sto dicendo. Però stiamo parlando è una metafora. Di cosa? Ragazzi, morto di fama. Ragazzi, è una metafora. Però stiamo parlando, ragazzi, però. Davide, scusa, va bene la polemica, il divertimento, però non è che bisogna mettercelo per forza in tutte le cose. Cioè, capisco la metafora. No, è una cosa. Capisco la metafora. Ci sono allora, diciamola diversamente. Se c'è un coglione, non blocco tutto. Non blocco una trasmissione. Lo stesso per la Puglia. Fermo là. Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. Si vince, ma la mascherina. Niente, andiamo di tutto quanto. E perché andiamo di tutto quanto? La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Bisogna far stare a casa i vecchi, quelli che vanno in giro a cazzeggio, i giovinastri fancazzisti, quelli che, come dite voi, fanno la farsa delle passeggiate col cane. Quelli bisogna multarli e massacrarli. Però le persone civili, assennate, che non si assembrano, che seguono le regole, e che stando in solitudine si isolano, quelle hanno il diritto di isolarsi. Abbiamo il diritto di isolarci anche fuori di qua. Ma non ti vergogni, testa di cazzo di Cruciani, ma come fai a non vergognarti, pezzo di imbecille? Fino a ieri te sgarbi a dire che era tutta una cazzata, era tutta una montatura, e ora dici che il governo non ha fatto abbastanza. Ma un pochino di dignità, ma che persona sei? Ma fa proprio schifo fai, eh. Emiliano da Siena, vienimi a trovare, vieni, imbecille. Allora, che cosa determina, come dire, una politica delle mezze misure? Determina questa situazione che i cittadini corretti, l'80% in Campania, ecco, vivono una condizione di vita pesante, ma questo loro sacrificio rischia di essere vanificato dalla irresponsabilità di un 20% di persone incivili. Senti questa cosa straordinaria, le zeppole, esatto, di San Giuseppe al coronavirus, cioè, esatto, c'è gente che ha fatto le zeppole di San Giuseppe al coronavirus, ma ti rendi conto? Le zeppole, sì, di San Giuseppe al coronavirus, sempre De Luca straordinario, pieni poteri, vi prego, pieni poteri a De Luca, altrimenti non ne usciamo, vi dico che non ne usciamo se non ci sono pieni poteri a De Luca, cioè nei confronti di chi è a Palazzo Chigi, la coppia Conte-Casalino, ma non è meglio De Luca con tutti intorno i suoi uomini, tutti rigidi, freddi? De Luca e Schwarzenegger, no, ma c'è un filmato su internet che gira da un po' di giorni, come si chiama? Lucop, Luca Cop, là, come diavolo si chiama? Cioè, Robocop, De Luca Cop, che sembra la Cop, Robocop, sì, certo. È stata la festa del papà. Abbiamo avuto a Napoli dei buontemponi che vendevano per strada le zeppole di San Giuseppe, che portavano in omaggio al papà, diciamo, la zeppola, ecco, condita con una bella crema al coronavirus. Siamo lì, la bestialità totale. Roba incredibile, la gente con le zeppole. Gente con le zeppole per strada le portava. Contro le manifestazioni religiose, pure questo De Luca mi regala. Pure questo regalo mi fa, le manifestazioni religiose. Contro le tu ti rendi conto quanto è il mio idolo? Pure contro le manifestazioni religiose. Abbiamo avuto persone che in maniera irresponsabile hanno dato vita a manifestazioni religiose con decine di persone. Abbiamo dovuto mettere in quarantena una zona della regione nel Vallo di Diano perché vi erano state due manifestazioni religiose. Queste non sono manifestazioni di spiritualità, sono manifestazioni di imbecillità. Ragazzi, a proposito, a Napoli c'è gente che ha organizzato un battesimo, 5 persone denunciate. E in quale città si organizza un battesimo? In quale città? Dentro la crisi del coronavirus, 5 persone denunciate, il parroco, il fotografo, eppure il fotografo hanno portato il padrino del bambino e due genitori, tutti denunciati. Io li avrei portati al gabbio, ve lo dico subito, al gabbio, proprio al gabbio, direttamente al gabbio. 7 giorni e via, 7 giorni e via. Ci sono stati degli sposi, cioè c'è stato un matrimonio, io non sapevo fosse possibile fare un matrimonio, pensavo fossero esclusi i matrimoni, fossero stati aboliti come, certo, come i funerali. No, si può fare. Dovrebbe. Si può fare, dice a Napoli, ma credo in tutte le città, e si possono, si devono rimandare, in 3, in 4, ci sono quelli procrastinabili, ma ho capito, è uguale il matrimonio, ma che cazzo ti sposi a fare? Già il matrimonio si potrebbe discutere, ma vabbè, lasciamolo passare, un'istituzione come dire ormai affermata, anche se in crisi, ma amico mio, durante il coronavirus hai fissato il matrimonio e rimanda sto cazzo di matrimonio. Denunciati, testimone, perché poi facevano le foto per strada, come se niente fosse, come se niente fosse, sempre vicino Napoli, roba da pazzi. E poi a Firenze la solita cosa, uno che è uscito aveva scritto sul permesso cerco droga, e fermato dai carabinieri, che cazzo ha fatto? Ha detto ragazzi non ne posso fare a meno. Forse questo è quello più comprensibile, lo sapete? Cioè questo qua che ha scritto, certo mi fermano, chi se ne frega, mi sono preso la mia dose, mi piglio, oppure mi sono preso le mie canne da fare. Ragazzi, che devi fare? Se uno sta a rota, oggettivamente, se uno sta a rota, se uno vuole cocaina, eroina, io non lo. Non, per carità, però che fai? Ti becchi la multa che poi non pagherai mai? Perché si è scoperto, tra l'altro, che le multe che fanno adesso, i provvedimenti che fanno adesso, difficilmente saranno, l'ho letto da qualche parte, difficilmente sono, come si dice, eseguibili, difficilmente saranno. E perché mai? L'ho letto da qualche parte, mai? Vale. Vabbè, perché uno farà ricorso come si fa su 100 milioni di altre cose. La roba, no? Incredibile, incredibile. Nicola da Belluno, vai avanti tutto, Nicola. Dimmi. Dimmi, dimmi Nicola, dimmi. Ma allora io per colpa di questi pazzi imbecilli che si fanno fotografare o che vanno in giro, che poi rappresentano lo 0,0 della popolazione italiana, io non posso più andare a farmi la mia passeggiata Sant'Anna, la mia corsetta. Ma scusa. Cioè scusa, tu... Allora, io sono pure uno a rischio perché ho un problema al cuore e l'anno scorso ho avuto una... E allora che cazzo vai a correre? Ma cosa vai a correre? Devo andare, no, devo andare. Perché devi camminare per la circolazione. Forse. Ma ho capito, ma vai nelle scale, vai nelle scale di casa oppure vai a... Vai per le scale. Vi ho anche mandato un video di ieri pomeriggio di quanta gente ho incontrato. Ma siamo a Belluno, abbiamo 120 casi su 250.000 persone. Tutti mantengono le distanze, per strada non c'è nessuno. Effettivamente in Veneto siamo fortunati. Sì. Mi rompete le palle perché vado a fargli una corsa da solo. No, o perché vado in bicicletta con allora, però io posso dire. No, ma posso dirti una... quel rischio porto. No, ma il, ma il problema, Nicola, io ti capisco, per carità, perché l'ho detto e lo ripeto, fino a domenica scorsa sono andato a correre pure io, anche se poche volte, ma sono andato a correre. Dunque sono colpevole, tra virgolette, anche se in realtà non ho. Cioè non è che ho infranto la legge, ero perfettamente nella legalità. Però posso dirti una cosa: siamo in una situazione eccezionale, siamo in una situazione talmente eccezionale, sì, che ci manca. Mancano i fondamentali della nostra vita ogni giorno, ogni secondo. Allora, ma di che cazzo stiamo parlando? Il andare in giro con la bicicletta col bambino o fare l'attività motoria? Nicola, fai le scale di casa, cerca ma di... No, ma perché? Niente. Ma perché? Vabbè. Perché non pensa, si può? Sono... Perché non si può? Perché ma se tu... vero, ma perché se tutti la pensano come te? Perché se tutti la... se tutti la pensano come te, se tutti la pensassero come te, si radunerebbero tutti quanti fuori e si... Ma non è vero, non è vero. Ma non è una palla. Perché probabilmente a Belluno non è così, ma a Milano e in altre città. A Belluno fai fatica a radunarti comunque. Ma ragazzi, è vero, però non si può. Sì, ma non si possono fare distinzioni. Ma anche nel resto dell'Italia, se c'è 60.000, se ci sono 50.000 infrazioni, vuol dire che è lo 0,07%. E noi per lo 0,07% dobbiamo mandare il dici, per colpa di questi qua, per colpa di questi io non posso andare a fare la mia corsa. Ma non posso... colpa di 0,0, ma siete fuori. Marcello da Como, Marcello da Como. Come per colpa di pochi bisogna pagare le tasse. Marcello da Como. Per colpa di pochi furbi, purtroppo. Bah, Marcello da Como. Forse anche per colpa dello Stato che mette le tasse troppo alte. Marcello, dimmi, dai. Ciao, volevo approfittare per mandare a fare in culo i miei compaesani di San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Comunque ragazzi, un secondo fa Organizzazione Mondiale della Sanità, pensa che è incredibile questa cosa qua, mascherine servono a medici, non indossatele, se non avete una persona malata a casa, cioè, a parte che non lo puoi sapere se non c'è una persona malata a casa ormai. Marcello, dunque, voi due che avete la mascherina dietro, dentro lo studio, c'è cioè la corte eccetera, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto non servono a un cazzo. Marcello da Como, allora. Dimmi. Sì, ciao, vorrei mandare a fare in culo i miei compaesani di San Fermo della Battaglia in provincia di Como che ieri, mentre andavo a fare la spesa in bicicletta, mi hanno insultato senza nemmeno chiedere dove stessi andando, cosa stessi facendo e perché. Dopo questo fatto, sinceramente, mi sento di rivalutare un pochettino quelle che sono state le parole ma di Gottardo. Ma ti hanno insultato perché? Sgarbi. Perché ti hanno insultato? Spiegami. Mi hanno insultato, mi hanno detto devi stare a casa, che cazzo fai, dove vai, perché ero in giro in bicicletta, ma senza chiedermi dove stessi andando. Ma questi sono dei pazzi, se non ti hanno chiesto perché, tu che cosa andai a fare, la spesa in bicicletta, che cosa andai a fare? Sì, stavo quante volte a fare ci la vai? Spesa. Quante volte vai a fare la spesa? Quante volte ci vado? Beh, 3, io 4, con i miei, 3, 4. A volte ci diamo il cambio con la mia famiglia. Io ragazzi, ma diciamoci la verità, la spesa si può fare tranquillamente una volta a settimana, massimo due. Si può fare tranquillamente. Se la gente vuole fare, cioè se i furbacchioni vogliono andare 5 volte, come ci ha raccontato ieri uno, a fare la spesa per sganschirsi le gambe, io lo capisco, ma non si può fare e siete dei rincoglioniti. No, Marcello, no, fermola, no, fermo, no, fermo, no, fermo, no. Fermo, fermo, fermo, fermo. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che, nel bene o nel male, ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetela in una o due pagine e inviatecela a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. One Express, il pallet espresso. Vi presenta La Zanzara. Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti, se appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani. Domani. Più veloci domani. Più veloci domani. Domani. Più veloci domani. Domani. Tutti insieme ce la faremo. Non avete paura, che noi, la nostra Italia, scomperemo questo coronavirus da parte mia e noi ci vengeremo questa vittoria. Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, noi scomperemo questi coronavirus, la nostra Italia, Italia, Italia! In quale città avviene il battesimo abusivo con sacerdote, padre, madre, padrino e fotografo denunciati? Bolzano, Bologna. A Napoli. Ciao, sono Luca da Perugia, non vi richiamo perché vi ho chiamato ieri. Continuate a far vedere da cinesi che bisogna continuare a chiudere l'attività, bisogna stare in casa, che loro sono riusciti a sconfiggere il virus. Ma chi ce lo dice? Non sappiamo manco quante persone uccidono nelle loro galere. E noi ci fidiamo di questi comunisti imperialisti del cazzo? Ciani, sei un coglione, lo sai perché si chiama Covid-19 e non 20? Perché i cinesi hanno avvisato l'OMS a dicembre 2019, testa di cazzo, sinofobo, viva la Cina popolare, merde, viva il comunismo. È arrivato il fenomeno. È arrivato sinofobo. Sì, non l'avevo mai sentito. Sinofobo. Sinofobo. A te piacciono sinofobo. Le cose un po', no? Non facilmente comprensibili al volgo, diciamo. Sì, perché. No, perché così poi uno si ingegna, va a studiare, a vedere la cosetta e impara una roba in più. Sinofobo è divertente. Cioè, ragazzi, la Cina, secondo alcuni, oggi è diventata il nostro migliore partner. Cioè, lo sbandierano a destra e a manca quelli del governo, la Cina di qua, aiutano qui, mandano quelli. Lo dice anche Cacciari. Sì, anche Cacciari. Allora, ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Questo virus del cazzo, che ci fa vivere in maniera diversa, non ci fa abbracciare le persone, non ci fa più fare la vita normale e fa morire, soprattutto quello, una marea di gente. Viene quante dalla volte Cina. Mi abbracciavi? Quante volte mi abbracciavi tu, no, Cruciani, te, prima di questo volte, virus? Poche volte, anzi, per nessuna, esempio. Però voglio dire, abbracciarsi con gli amici, stringersi la mano, andare a cena, cazzo, sono le cose che ci mancano di più. Ma sto parlando di chi è ancora in vita, ovviamente, no? Per altre persone il problema sono le persone, i vicini, i cari morti. Allora, la Cina è partito tutto dal cazzo. O anche Cina. Semplicemente i genitori che non si possono vedere. Sì, ma certo. È un problema, allora, la un Cina, dramma. Ragazzi. Per allora pulirsi dalla coscienza. La spagnola, dove era partita la spagnola? Ma ho capito, cioè, ma le, questi le epidemie sono no, epidemie. Ma non sto dicendo a parte la colpa che uno può parlare, cinesi. A parte che uno certo che è dei cinesi, può parlare la anche peste, del modo in cui mangiano, del modo in cui mangiano o del modo in cui, come dire, no, allevano gli animali. Però questo è un altro discorso, non sto parlando dal punto di ma vista animalista. Le epidemie animalista, sono sempre esistite, sì, purtroppo. D'accordo, però il mondo non è perfetto, va benissimo. No, ma non solo. Ma non hanno condiviso le informazioni con il mondo per una marea di tempo. Questo è vero. E allora questo di che vero, parliamo? Ragazzi, i primi untori sono i cinesi che adesso passano come i benefattori dell'Italia. Dai, cazzo. Adesso vi faccio sentire una cosa. Non si sente molto bene perché c'è un accento ciociaro barra napoletano, perché la scena è a Cassino, non è a Napoli, dove ci sono delle persone che fanno la carne alla brace e fanno una specie di picnic in cortile. Ma in questi giorni, ieri, l'altro ieri, il 18 è successo, picnic in cortile. Poi naturalmente intervengono i carabinieri perché i vicini si incazzano e finisce a cazzotti, cioè finisce a botte con i carabinieri, con la polizia che interviene. Ma ti giuro, hanno fatto il picnic col vino, eccetera, con tutto il, perché c'era il sole, c'era bel tempo, per fortuna adesso arriva la pioggia, e avevano realizzato quello che normalmente si fa in primavera, no? Cioè una specie di picnic in questo periodo, questi signori. E poi si sono incazzati. I carabinieri erano lì fermi, in bobili, non sono intervenuti. Cioè sono intervenuti a sgomberare, ma poi non hanno fatto niente con gente che aggrediva gli altri, insulti, una roba incredibile. Siamo abituati. Oh, abbiamo finito, però non lo riprendi, eh! I migliori non li riprendi! Dopo lo dice l'avvocato! Dopo lo dice l'avvocato! Cristian, stai rischiando! A me mi fa! Sì, si conoscono! Chi è? Tu, allora, tu non ti preoccupare! Cioè, capito? Si conoscono, Cristian, stai rischiando, dunque stanno fermi. Sì. Ma ragazzi, ma in che paese è? Ma che paese è? Ma che paese è? Ci vuole. Cioè, poi dice che non ci vuole la legge marziale. Questi se la meritano la legge marziale. Questo è il paese che abbiamo davanti, con la polizia che conosce quello là e che dice Cristian, poi lo dice all'avvocato. Penso che sia il poliziotto, credo. Poi la gente che si aggredisce, i poliziotti, i carabinieri fermi. Ma che stai a fare la palla? Ma sta cugino, ma la palla. Ma quando cugino ancora di cugino, dai la palla e stanno qua! No, non ci stanno qua! Allora, mettermi! Svegli, che vattene! No, vabbè, no, Cristian, stai tranquillo! Ma non stai tranquillo, frato! Ma lei che stai tranquillo? Vado capito! Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto. Fate schifo, pezzi di merda. Questo ci fa un po' ridere perché ci ricorda gli inizi di questa vicenda del coronavirus, quando abbiamo mandato in onda questo video che era di Firenze, in cui la gente insultava i cinesi. Ti ricordi? Cioè, ci ridevamo sopra, invece alla fine ce la siamo presa in culo pure noi. Quando noi a Firenze ospitavamo cinesi nello studio lì alla concessionaria, come no? Certo, assolutamente. Studio dell'Istituto Superiore di Sanità è uscito adesso. Ma lì facevamo bene, però. Lì facevamo sì, bene, era contro la criminalizzazione dei cinesi. Studio dell'Istituto isolata. Superiore della Sanità su 355 vittime, 0,8 senza altre patologie. Primo studio, 0,8. Certo, pesano l'età geriatrica e le malattie concomitanti. Ma va? Che strano. Livio da Catania, anzi Luca da Parma. Vai Luca da Parma. Luca. Ciao Giuseppe, ciao sinofobo. Ah, sei tu quello del sinofobo. Sono io così hai imparato la nuova parola. Sinofobo. Un genio. Ma ragazzi, anche tu fai il tifo per la Cina? Per questi criminali che hanno portato il virus in tutto il mondo? Dai, su. Sì, ascoltami, ti do un dato così magari impari qualcosa. Sì. Basta che vai su ADN Cronos, quindi non sui blog comunisti, neanche su quelli nazisti, e scoprirai che si chiama Covid-19 perché le prime informazioni su questo cazzo di virus sono state divulgate dalla Cina nel 2019. Allora la mia domanda è: come bisogna mai vedere cosa hanno detto, ma che c'entra, dai, su. Ma hanno detto tutto, hanno divulgato tutto, basta ma che vederlo. Hanno divulgato ma tutto, ma domanda, non dire cazzate. Ti faccio una domanda, perché l'OMS non sostiene quello che sostieni tu. Ma cosa? Ne sai più dell'OMS? Ma cosa c'entra? Mica il tribunale l'OMS, ma non è una missione radiofonica. L'OMS, cosa c'entra? Ma che la Cina per un periodo non abbia dato informazioni nemmeno ai cinesi stessi? Lo l'OMS, lo ha detto anche tu. Stefano da Brescia, vai Stefano. Dimmi Stefano. Dimmi. Eccomi qua. Dimmi. Dunque, volevo chiamo in merito a quello che sta succedendo nella mia città. Sento poco, però, ragazzi, sento poco. Togli via voce, l'auricolare, dimmi. Nico da Bari. Dimmi, Nico. Nico? Enrico da Milano, vai, Enrico. Sono io, ciao. Dimmi. No, io voglio dire una cosa. Ora, è vero, le corsette, è vero che ti porta a spasso i cani. Io abito in circonvallazione a Milano. Sì. Stamattina c'ho la finestra che dà sulla circonvallazione vicino alla fermata. Sì. Ma qui passano la mattina a 91, sopra ci sono 40, 50 persone, 30 persone, di spalle, sai come sono i seggiolini, no? E di spalle, senza mascherine, c'è gente che va in giro, che cazzo c'entra la corsetta? Io capisco che te ti girano le palle. Sì. No, ma la corsetta. Incazzato, vedi a quello che no, corre, no, ma io. No, ma guarda, Enrico, guarda, io ho parlato tutto, anche qualche giorno fa, ho parlato anche della vicenda degli autobus. Purtroppo la differenza è che la gente che sta sugli autobus non è che va là per divertimento. Probabilmente non è che vanno negli autobus così perché vogliono mantenersi in forma. Stanno sugli autobus perché vanno a lavorare. Questo mi sembra evidente. Per cui il problema è che ci dovrebbero essere 100 autobus con al massimo 10 persone dentro. Se non siamo in grado nemmeno di organizzare una cosa normale come questa, ma le amministrazioni, ma che cazzo ci stanno a fare? In questo momento dovevano mobilitare tutti i pullman, tutti gli autobus delle città, delle piccole e grandi città, metterne a disposizione negli orari di punta il triplo di quelli che ci sono adesso, il triplo, e mettere dentro al massimo 10 persone. Non siamo in grado di fare un cazzo, nemmeno questo. Ma cosa fanno i sindaci se non fanno questo? Perché lasciano ammassare le persone alle 6 di mattina dentro gli autobus? Ma quelli devono andarci per forza. Ma certo, la gente è ammassata. La gente è ammassata perché noi non siamo in grado di organizzare una stramazza di nulla, nemmeno il servizio pubblico nei momenti di emergenza. Si devono dimettere tutti questi cazzo di sindaci. Non adesso, dopo. Fermi tutti. In viaggio con Tommy è il podcast di Radio 24 che racconta l'autismo attraverso il diario della mia ricerca, assieme a mio figlio Tommy, di oggetti straordinari per un'iniziativa straordinaria, l'asta per i cervelli ribelli. Il nostro racconto sonoro si arricchisce ora di 3 puntate speciali in onda la domenica alle 18 per 3 settimane. Saremo poi con voi in diretta a parlare di neurodiversità il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, per uno speciale Melog, ma anche con il film che Sky Arte ha dedicato all'avventura che ho vissuto assieme a Tommy e altre persone sicuramente fuori dall'ordinario. Il preside di Saronno che avvisa gli studenti su YouTube di collegarsi per le lezioni virtuali. La maestra che parla in video ai suoi bambini di Vo in zona rossa. L'emergenza coronavirus ha dato una spinta alla didattica digitale e quando torneremo alla vita normale ci regalerà forse delle scuole migliori. Percorso che però in molte scuole era già iniziato. Viaggio nelle scuole più innovative d'Italia, verso il futuro e oltre, scuola, università, ITS, dove e come prepararsi alle sfide di domani. Sono Maria Piera Ceci e vi aspetto ogni giovedì con una nuova puntata su radio24.it. La Zanzara. Ve la prendete con i runner, ancora per la gente che va fuori a correre, ma porca puttana, se uno va fuori a correre che è da solo e poi invece va a lavorare durante il giorno dove ci sono altri 300 colleghi, 400, io ho un cliente che ha 600 dipendenti, fa i turni. Ma che cazzo vuol dire fare i turni? Magari sono 200, 300 persone una volta a contatto tutto il giorno e in una fabbrica e voi vi lamentate della gente che va a correre. Ma fin quando non chiudiamo tutto, dove cazzo vogliamo andare? Se non chiudiamo, io sono un piccolo imprenditore, ho 15 dipendenti e riesco a far mantenere le distanze, ma dipendo da gente che ha 300 300, 400, 600 dipendenti. Finché non chiudono loro non posso chiudere neanch'io. Allora chiuderemo quando saremo tutti malati e durerà 4, 5, 6 mesi, saremo tutti fottuti. Andiamo avanti così, va bene, ok, va bene. Assurdo, Giuseppe, assurdo. Non vedo la mia ragazza da 10 giorni, forse 2 settimane, abita a 200 metri da casa mia e su questo si può soprassedere, ma soprattutto non lavorano gli spacciatori. E questa è una grande emergenza per tutti noi, dovete parlarne più spesso, dovete parlarne di più, se può così non si può andare avanti. Aiuto! Sì, non scherziamo, però posso dirti una cosa, quello che è stato preso a Firenze e che aveva scritto nella, nel permesso, là, nel modulo che bisogna compilare di droga, carta, sì, di sì. Carta. Mi devo drogare, io da un certo punto di vista lo capisco, anzi ha tutta la mia comprensione, lo sai perché? Perché fino adesso lo Stato... Fino adesso lo Stato, no, vabbè, non è che la mia comprensione perché si droga o perché è uscito per cercare la droga. Certo, capito, finora certo. Lo Stato che cosa ha fatto? Gli ha sostanzialmente consentito di uscire e comprare eroina, cocaina, hashish, pasticche, quello che è, sostanzialmente in maniera libera, perché di questo si tratta in Italia, no? Cioè non è che in Italia ti è impedito di farli, anzi. No, tutt'altro, lo Stato ha provato a dirti con le buone maniere: guarda che col rosso non si passa. No, poi no, ha dovuto metterti ancora una sanzione, no, perché tu continuavi a passare con il rosso. Sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando di un'altra cosa. Fino adesso uno che si vuole drogare, no. Uno che si vuole drogare oggi in Italia, fino all'altro giorno, poteva uscire da casa e acquistare ovunque una sua dose di eroina, di cocaina, eccetera. Cioè, ma anche adesso. Adesso è un po' più complicato. Guarda che in stazione ferroviaria a Padova, dove io passo tutti i giorni per andare la mattina nel mio programma e la sera qui, li trovo tutti quanti e sono facilissimi da vedere, perché ci sono solo loro ed io e pochissimi altri. Però poi eppure gli spacciatori non vengono, che fanno? Non vengono che fanno? Sderenati. Gli spacciatori e poi devono trovare fischiano? Gli acquirenti. Devono trovare gli acquirenti. Certo, fischiano, girano in bicicletta come dei matti finché trovano gli acquirenti. Sì, posso dirti ancora una volta: cioè finora, tutta la luce del finora sole, questa cosa tutta qui. Tutta la luce certo, del sole. Finora questa cosa qui era molto facile. Adesso per chi vuole rimanere in casa è un po' più complicato. Dunque, io questo qua che è uscito e che anche in maniera un po' goliardica ha scritto: io cerco droga a Firenze, io lo capisco. Cioè, lo abbraccio forte perché fino adesso lo Stato ha consentito, cioè gli ha fatto fare quello che voleva. Uscire e trovare droga, di che parliamo? Dai. Peraltro ho notizia dell'home delivery da parte della droga, almeno nel padovano. Cioè ormai si stanno organizzando di farsela portare a casa, sì. Allora ragazzi, vi faccio ascoltare la voce di una ragazza che si chiama Roberta Zaninoni e che è di una 32enne di Colzate, provincia di Bergamo, balseriana. E il padre, 72 anni, è morto in ospedale. È una denuncia molto forte quella che fa questa Roberta Zaninoni. Magari dopo la chiamiamo. Abita in Albania, non abita a Bergamo. Dunque non è riuscita nemmeno a tornare per salutare il padre, che è stato lasciato, come dice lei, come un cane morire negli ospedali di Bergamo. Sicuramente quello che ti dico io è che non era giusto che moriva così e che moriva come un cane, perché sono morti come dei porci, come dei cani, ed è la parola giusta da dire e non c'è vergogna di dirlo, in un numero, in mezzo a tante persone, e la gente ancora adesso dice: ma erano vecchi, erano malati. Era mio padre, cazzo, e non era vecchio e non era malato, e vaffanculo. Quando è arrivato quello delle pompe funebri, il 13 marzo 2020, alle ore mezzanotte, lui ha detto a mio fratello: Mirko, non lo so, passeranno 2-3 settimane prima che riusciamo a cremarlo. Perché c'è, solo oggi ho chiuso 63 bare. E lui è una pompa funebre, ma sai quante ce ne sono? La zona rossa sono stati bravissimi a Codogno, nell'altro paese che dicevamo prima, perché non l'hanno fatto da me? Perché non l'hanno fatto in Valseriana, nella mia valle? Perché sono dovuti morire tutti i nonni, tutti i papà? Per favore, non sottovalutatelo, come l'ho sottovalutato anche io. E l'altro appello che faccio invece è solo allo Stato, visto che ha già sbagliato e lo sa di aver sbagliato con noi, con la Valseriana e con Bergamo, almeno di rifarsi, di dire: ok, a Bergamo questo mese chiudo tutto, anche le fabbriche grandi, non faccio pagare le tasse, vi do un cazzo di aiuto, ma che qualcosa faccia, perché ancora è tutto aperto, ancora tutto gira, ma i soldi sono i più importanti della salute? Io penso di no. Ecco, questa testimonianza vale come risposta a quelli che parlano in questi giorni di modello italiano. Il modello italiano, cioè tutti orgogliosi del modello italiano che stiamo esportando. Sanità, sì, però. Ma di che parliamo? Ma quale modello italiano? Con i morti superiori alla Cina e con cose che non hanno funzionato. Vabbè, di cui mica, c'è... Quello, mica è colpa dei medici quello. Ma però. Non sto dicendo i medici, ho detto che non c'è alcun modello italiano però su questa vicenda. Non possiamo dare lezioni a nessuno su questa roba qua, a nessuno. I negazioni... A Milano stanno tirando su un intero ospedale. Ma questo che in c'entra? Ma quello giorni. Che certo, quello è straordinario, ma in altri giorni, posti si farà uguale, non è che gli altri posti sono degli incoglioniti che non tirano sugli ospedali. So. Guarda che hanno adesso fatto in Corea o in Cina, faranno. Dai, su. Paesi non democratici, li Massimo senza rispettare Perce, i diritti no. dei lavoratori. Corea del Sud però. Non fa lo stesso errore che fece qualcun altro. In Cina, in Corea non hanno neanche chiuso. Massimo Vercelli. Breaking news. Ne abbiamo parlato a lungo oggi dell'ordinanza del governo attesa con le nuove regole per contenere il contagio. Cominciano ad emergere elementi. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Era questo uno degli elementi che si attendeva. Ce ne saranno altri, naturalmente ve li racconteremo nel corso di Effetto Notte. Cioè, ragazzi, avete sentito, no? Cioè, avete sentito questa follia? Ma è una cosa patetica. Ma che hanno chiarito? Ma possibile prima. Sempre dalla parte del governo, cioè, cazzo? Certo, lo devi. No, hanno resta chiarito, consentito essere giusto, nei pressi della propria resta abitazione. Consentito, ma nei ma pressi, che vuol dire? Cioè, non puoi andare a Villa. Io non posso andare a Villa Borghese. Ma non vuol dire cioè, niente. Non posso andare alla Caffarella. Ma non vuol dire se nulla. Se mi beccano alla Caffarella, e non c'ho i documenti. Scusami, non c'ho i documenti. Visto che stai dall'altra parte. Esci con i documenti. Esci con i documenti. Dei pressi. Esci con i documenti. Ma che vuol dire nei pressi? Cosa vuol dire? Ma che vuol dire nei pressi? Ma ragazzi, ma è ridicolo. Però nel dubbio governativo. Nel dubbio sempre da parte del governo. Nel dubbio assolutamente governativo. Assolutamente, assolutamente Massimo sì, da Vercelli. Mai un dubbio Massimo verso da Vercelli, ragazzi, è una puttanata meglio pure questa. Governativo che coglione. Meglio governativo che coglione. Si può essere Fidati. Contemporaneamente governativi e coglioni, potrei citare centinaia casi, di esempi, in alcuni casi, ricordati in che alcuni c'è casi, Casalino, sì. Ricordati che in c'è Casalino, casi, Massimo da Vercelli. Ricordati di Toninelli, era governativo anche quello. In alcuni casi è possibile. Si può essere governativi e coglioni. Massimo da Vercelli. È più comodo essere governativi, lo capisco, Massimo da Vercelli, vai, Massimo. Sì, molto adesso diventerò sottosegretario. Dimmi. Per tutti gli enti previdenziali del mondo, se il coronavirus non ci fosse stato, bisognava inventarlo. Pensate solo quante pensioni risparmieranno. Io sono un pensionato, tra l'altro. E questa è una cosa che abbiamo pensato. Abbiamo pensato in molti, solo che. C'è solo una cosa. Ma che cazzo vuol dire? Non è che i vecchi muoiono e uno esulta perché i vecchi muoiono, dai, su Massimo. No, ma sono anch'io vecchio, purtroppo. Ce n'è solo una cosa positiva del coronavirus, che è molto, molto, molto democratico. I 66 anni di vita è la prima cosa veramente democratica. Figlio dal principe Ranieri all'ultimo operaio. Ecco, l'unica cosa positiva è che è molto democratico. Molto, molto democratico, su questo non c'è dubbio. Però, è l'unica però... cosa in tutta la mia vita. Ah sì, poi è certo, il principe magari viene anche curato, ma a parte quello... non è che muore in una cosa, non muore in una corsia a Bergamo tutti, senza nome. Cioè, è l'unica cosa positiva, però ripeto, io non mi gioisco perché sono anche io... Penso di essere sano, ma sono pensionato, quindi ho anche una bella pensione, quindi faccio parte, secondo me, di questa casistica mondiale. Un uomo di Colombo per le previdenze Umberto sociali. Umberto da Bergamo, vai Umberto, dimmi. Dimmi. Oh, Umberto. Pronto? Dimmi Umberto, sì, dimmi. Ciao, buona serata. Dimmi tutto. Niente, volevo intervenire semplicemente dicendo la mia... Vai. Su questi interventi di questi runner che non riescono a limitarsi, non riescono... Cioè, io chiamo da Bergamo, sapete benissimo la situazione qual è. Sì. Ci sono i morti, tanti morti. Sì. Si apre il giornale la mattina. Sì, ma io ogni giorno sull'Eco di Bergamo ci sono almeno una decina di pagine di annunci mortuari. Sì, ma riconosci persone che hai visto 10 giorni fa. Umberto, però ti sentiamo male. Non so se sono le linee disturbate, non so da cosa, dai virus informatici. O ti avvicini di più, o ti metti in una zona dove prende meglio, fai il cazzo che ti pare. Dimmi. Mi senti adesso? Mi senti meglio? Sì, dai, dimmi. Ecco, niente, semplicemente questo, un po' di rispetto per queste persone, perché qua, stanno morendo. Allora, il problema dei runners dipende dalle persone, naturalmente. Quelli che si radunano a fare il picnic è peggio, naturalmente. Quelli che fanno la corsetta e non infrangono la legge, quelli infrangono la legge. Quelli che hanno corso fino adesso, adesso dicono che possono correre intorno alla propria abitazione. Me lo dovranno spiegare. Okay. Cazzi in più per chi li deve controllare. Questo è il punto che non avete calcolato. Infatti, un problema in più. Ma ti pare possibile che in questo momento la polizia municipale, i carabinieri, la polizia si devono occupare pure di capire se uno abita a 200 metri, a 300, a 400 metri? Ma ti pare un provvedimento normale e coerente? Ma che roba è? Dai. Ma possiamo fermarci tutti, visto che se lo chiedono tutti e siamo in emergenza. Fermiamoci tutti, non si va a correre per 10 giorni, non muore nessuno. Al supermercato ci dobbiamo andare per forza. A correre magari ci si può fermare, no? Sì, ma anche certo. Perché, ciao amico mio, ciao. Allora, vi presento un personaggio, ve lo presento in questo modo, perché ho beccato due o tre cose sull'internet. L'ingegner Negri si chiama, l'ingegner Negri. Sentite, sentite questi piccoli spezzoni. Sono veramente stupidi, totalmente stupidi, perché non capiscono che se uno va a fare una passeggiata, un giro in bicicletta, una corsa, non avvicina nessuno, non succede niente. Ma io non voglio tornare nell'oscurità dei tempi di guerra, delle paure. Mamma mia. Io non ho dimenticato quelle scene. Quali mi sono state raccontate da mio padre, da mio nonno, quelle scene terribili, quelle scene in cui si arrivava, si fermava, il pullman entrava dentro la pattuglia, entrava dentro quest'uomo e diceva: controllo, controllo, documenti, e la gente tremava. Stasera la stessa cosa, sono entrati due donne, quasi piangevano, tremavano, le loro mani erano aggrappate ai sedili anteriori, hanno lasciato l'impronta per la paura e hanno detto: tu dove stai andando? Questa non è la tua zona, dammi la giustificazione. Basta, basta, basta, italiani, sollevate. Prego, chiamiamolo, che questo potrebbe regalare tantissimo. Ma chiude con italiani. Si è chiuso con italiani, si è chiuso con italiani, non so che cazzo ne so. Sei pronto? Chi è, l'ingegner Negri? Sì, sono io. Ecco, buonasera, qui Radio 24. Mi dica. Sono Cruciani, come andiamo? Andiamo nel senso che ci sono tante persone che chiamano mettendo in evidenza il fatto che le forze dell'ordine stanno abusando del loro potere, perché il fatto dell'attività motoria è permessa sia per quanto riguarda il discorso della corsa e della passeggiata. Sì. C'è nel sito della Presidenza della Repubblica. Sì, però amico mio, c'è troppa gente, c'è troppa gente in giro, troppa gente in giro, c'è troppa gente in giro. Ma che troppa gente in giro, ma sempre con queste cose. L'importante è che la gente non sia vicina una all'altra. State facendo impazzire la le notte. Persone. Ma chi deve uscire? La notte. E sta lontano. Esci la notte. Questa storia di troppa gente in giro ci porterà alla distruzione. Ma quale lo distruzione? La notte. Esca la notte. Consigliare dai cinesi. Si può uscire? Non si può uscire. Non si può uscire. Sì, e purtroppo è permesso ancora. Speriamo che non sia più permesso fra poco, ma lei è impazzito completamente. Ma lei sta scherzando, lei vuol buttare l'Italia nel baratro con queste balle. Piuttosto. Ma io voglio i militari. Io voglio i militari. I militari per strada, i carri armati. I carri armati. Non è possibile con questo. C'è troppa gente in giro. La deve smettere, perché la gente la state distruggendo in un altro modo. In che modo? Questa scusi, è la realtà. In che modo la stiamo distruggendo? Scusi. Distruggendo perché la gente dentro casa impazzisce. Questi morti che ci sono stati, quanti sono direttamente identificabili con cause di morte. Ecco, ma scusi, ma lei fa il virologo? Lei coronavirus. Lei fa il virologo? Ma è ingegnere o virologo questo? È ingegnere o virologo? Ma lei cosa prende in giro? Ma chi gli pare di prendere in giro? Ma, gli pare, ma lei è ingegnere o virologo? Gli pare di avere a che fare sempre con la gente che dice quello ce l'ho con gli allocchi spesso, con gli allocchi spesso. Di fronte spesso, alle vostre stupidaggini, ma chi prende in giro? Ma scusi, ma ingegner Negri, ma lei esce tranquillamente da casa e fa il cazzo che vuole ogni giorno, non ho capito. Cioè, no, io esco solamente quando non c'è nessuno in giro e allora devo fare una passeggiata. Ma non si possono fare le passeggiate! Fare non si possono fare le passeggiate! Via continuamente. Ma lei pensa di prendere in giro tutta Italia. Questa, no, veramente questo no. È il modo. Basta, il modo. Documenti, io, documenti, guardi, dicevo, documenti, generalità. Nome, cognome, generalità. Basta. Mi sta a sentire. Generalità. Allora, c'è un decreto. Vogliamo le sue generalità. C'è un decreto che afferma che c'è la possibilità di uscire per fare attività motoria. Allora, purtroppo, se voi volete rinchiudere la gente dentro casa, il Parlamento deve deliberare che la gente deve stare chiusa dentro casa e non può uscire per una passeggiata. Cioè, ma lei lo sa, ma lei lo sa che ci sono. Ma lei lo sa che ci sono. Lei lo sa che ci sono. Lei lo sa che ci sono le bare piene di persone. Voi volete dire chi sta a casa e chi no? Deve essere il Parlamento a deciderlo. Siamo in una Repubblica parlamentare. Quattro gaglioffi non possono decidere per gli italiani. È il governo. Allora, è il governo. Il Parlamento che ci dirà che dobbiamo stare tutti a casa, che non si può uscire per attività motoria, verrà rispettato. Ormai ci sarà una stretta, per fortuna. Arriverà l'esercito. Allora, l'esercito! Aspettiamo la stretta, vediamo. State distruggendo l'Italia. Ma chi la sta distruggendo? E purtroppo passare da matta la gente che sta ragionando. La pensa come Gottardo, però, l'ingegnere. Siete voi perché state distruggendo l'Italia. Ma chi la sta distruggendo l'Italia? Ingegner Negri. Ma la sta distruggendo lei con quei video che fa su YouTube, con quei capelli, con quei capelli, insomma, anch'io non posso parlare. Se lei tiene la gente per 4 mesi cacciata dentro casa. E allora, ma 4 mesi ancora no. L'Italia sarà distrutta. Lei non capisce niente. Lei ha il soldo dei poteri forti. Ancora. Voi siete pagati dai poteri forti per condizionare vero, la però. Gente. Quelli però non sono più forti, che vanno purtroppo a cantare sui terrazzi. Questa. Siete tutta una razza. Ma che c'entra? Senta ingegnere, se lei non vuol cantare nel terrazzo, stia in casa e non rompa i coglioni e non canti nel terrazzo. Lei non pensi di prendere in giro, di intimidire me. Avete rotto con queste frasi, l'ironia. Ho detto rimanga in casa e non canti, rimanga in casa. Non si permetta di ironizzare. Cosa viene a ironizzare? Lei non capisce niente. Ma guarda, ingegnere, questo. Io non mi farei progettare neanche la cuccia del cane da questo ingegnere. Non mi farei progettare neppure la cuccia del cane da questo ingegnere qua. Aspetti, ingegnere. Aspetti. Ingegnere, aspetti un attimo. Io, ingegnere, aspetti un attimo. Io da questo ingegnere. Ma non mi farei progettare nemmeno la tazza del cesso, nemmeno la tazza del cesso. Ma basta con questi mantra. Ma c'è il cazzo di virus, c'è il corona. Ma lei lo sa che cosa? Lei lo sa che cos'è il coronavirus, ingegnere del cazzo? Lo sa o no? Lo sa o no che cos'è il coronavirus? Ma cosa urlate? Ma non sapete niente. Siete voi che non avete ingegnere. Nessuna cultura. Ma non quale ingegnere, ci avete messo in testa. Allora, il governo lo sapeva. Che cosa? Il 31 gennaio. Ancora con questa storia del 31 gennaio, è una bufala. È una bufala. L'emergenza di 6 mesi. Ma non ho capito, ma che c'è un colpo di stato? Siamo vicini a un colpo di stato, secondo lei? Allora, hanno già fatto un colpo di stato? No, me lo dica, ingegnere, esperto di... Siamo a rischio. Noi siamo a rischio. È arrivato l'ingegnere che parlava di macchine. Un ingegnere che parlava di macchine con i capelli lunghi che parlava di macchine a dirci che siamo in dittatura. Vabbè, d'accordo. Allora. Ma guardi, ma se la smetta, ma vada a a raccontare, a imbambolare qualcun altro. Lo possiamo segnalare alle forze dell'ordine? Faccia pure. No, ma che c'è? Tanto non mi intimidisce. Vabbè, ingegnere, arrivederci. All'ospedale psichiatrico? Se ne vada. Ma si vada lei all'ospedale psichiatrico, ci vada lei. Lei e tutta quella banda di persone che non capiscono assolutamente niente. Arrivederci, ingegnere. Basta, italiani! Ragazzi, che fatica, dai. Mai come quella che c'è in questo momento negli ospedali, per carità. Però comunque, Nico da Bari, vai. Dimmi. Buonasera a tutti. Dimmi. Volevo soltanto fare un appello a tutti quanti di rimanere qui in casa e muoversi quanto più poco possibile, perché io faccio parte della categoria dei trasportatori. Sì, ma si sente poco, Nico, non so cosa c'è in questi giorni. Nico, si sente poco. Anche io vi sento malissimo comunque. Vuoi fare un appello per che cosa? Ma i camionisti sono quelli che si devono muovere, amico mio, sennò le merci come girano per l'Italia? Cioè, da qualche parte bisogna andare a parare. E noi quello stiamo facendo, io faccio parte di quella categoria. Lo so. Pensa che io sono partito il 2 di marzo. E non voglio neanche rientrare a casa, perché purtroppo giro l'Italia e non voglio rientrare a casa, perché sono stato nelle zone rosse, nelle zone bianche, nelle zone viola. Cioè, tu sei dal 2 marzo, sei fuori, non vuoi tornare? No, ma non voglio tornare, non perché non posso tornare, perché non mi converrebbe tornare, perché io non lo so ancora se sono positivo o non sono positivo. Naturalmente noi nelle aziende quando entriamo ci misurano comunque la temperatura, noi ci mettiamo le mascherine. Sì. Ma come mangi tu? Come mangi? Come caghi? Come pisci? Come fai i tuoi bisogni? Io mi sono attrezzato, quindi cioè? non ho nessun problema. Cerco sempre di arrivare alle aziende che ci danno la possibilità di andare a fare i nostri servizi da uomini, da persone civili. Cioè nei bagni delle aziende, sì. Se no in autostrada. Ci sono ancora aziende che ci rispettano. Poi quando ci sono aziende, perché diciamo che hanno messo il protocollo alla lettera, allora ci troviamo un bel pezzo di prato, di campagna e facciamo quello che dobbiamo. E da mangiare come fai? E da mangiare mi arrangio io, mi cucino io, non ho nessun problema. Vado al supermercato una volta a settimana. Ma certo, vabbè, vai nei supermercati, vai a fare. Ma dove abiti tu, scusa? C'è io la casa? Cioè, per cui tu non vedi casa tua da quanto tempo? Dal 2 marzo? Dal 2 marzo, sì. Dormi nel camion? E dormo nel camion, mi faccio le docce in autogiro, nelle aziende dove sono io pulito e tutto. Che dobbiamo fare? Purtroppo le responsabilità ce le dobbiamo prendere o no? Se dobbiamo stare distanti. Sei un grande, fermi tutti, sei un grande. La Zanzara. Chi è? Io la saluto. Io signora. Ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal prendere. Sto mestiere, lui è un mestiere, una galera. Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Mi chiamo del principe, signore. Ma davvero? È il principe. Io vi auguro buon viaggio, principe. Tante grazie e tanti auguri. Niente, signore. È stato solo. Grazie tante. Croce Lenzo. Cosa? Cruciani, tu sei un pezzo di merda e pezzo di merda rimarrai. Fino a tempo fa facevo il fighetto, l'Italia può andare a fottersi. Ma che cazzo? Ma adesso è cambiato completamente adesso. Cambia discorso, tutto. Prima dicevo non me ne frega un cazzo dell'Italia, può andare a puttana, può fare tutto. Ma adesso cambia idea, ma che cazzo di personaggio sei? Ma tu vergogna non ne hai. C'è una parte vergogna, sei un gran pezzo di merda. Comunque ho una valigia di insulti nei tuoi confronti e me la tengo, aspetto che passi solo questo momento, poi dopo mi farò sentire, vedrai. Intanto dico solo una cosa. Allora, noi che abbiamo passione del calcio, che abbiamo anche l'abbonamento del Sky, allora? In questo momento come cazzo dobbiamo fare? È fermo tutto, campionato tutto fermo. Tutti i campionati sono fermi. E adesso io devo andare avanti a pagarmi l'abbonamento del Sky senza vedere un cazzo, a vedere il replay. Ma dove cazzo viviamo? tu che sei marchettario della Sky, allora cosa ne dice? Marchettario. Dobbiamo pagare Sky o non dobbiamo più pagare, cazzo? Possono fermare, no? Ma fai ricorso. Un'altra cosa, col signore l'altro giorno che è scappato dalla moglie, che si è finto con la Sharp per scappare dalla moglie, questo è il numero uno, è il top assoluto. Pezzo di merda che sei altro, Cusani. Ma chi ha detto il contrario? Ma che vuoi? Se vuoi scappare. Io l'ho conosciuto di persona, Paco. Sì, gli voglio veramente bene. Voglio abbracciarlo da qua e spero di rivederti presto. Pensate, Paco, come sei messo. Persona proprio bella. Una bella anche persona. Ricambia anche lui. Senti. Una bella persona, Paco. Mando un abbraccio a Parenzo e la sua famiglia che sono in attesa. Grandissimo Parenzo. Ciao, fratello, avanti, grazie. Tutta. Grazie. Ciao, Parenzo. Ciao, fratello. Grazie. Tu e i tuoi amici leghisti, adesso vi rode il culo, vi rode il culo con questo cazzo di virus non è arrivato dall'Africa, vi rode il culo. Cosa dirà tuo amico Fontana? Diceva che noi siamo la razza inferiore, cazzo. Ecco. Siete solo dei pezzi di merda. Tu e i leghisti, vai a fare il culo. Signor Paco da Belluno. Una bella persona, Paco, veramente molto carino, simpatico. Un coglione assoluto, ma lo senti o no? Ci siamo abbracciati mesi fa. Tu, a te piacciono questi personaggi qui? A te piacciono sincero, aperto. Allora, ragazzi, abbiamo un operaio, assolutamente. Abbiamo in collegamento Roberta Zaninoni, che è la figlia di una persona che è deceduta a 72 anni l'altro giorno in Val Seriana, non so in quale ospedale, credo ad Alzano, se non sbaglio. Buonasera Roberta, ciao. Ciao. Senti, tu ti trovi adesso in Albania, non ti trovi, non sei riuscita a vedere, diciamo, le ultime ore di tuo padre? Non sono riuscita, no, non ce l'ho fatta, perché anche qui avevano già bloccato tutto, di conseguenza non mi hanno lasciata partire. Quindi sono bloccata qui in Albania. Ti ha raccontato tutto tuo fratello, dunque, come sono state le ultime ore di tuo padre, quando tu dici che è stato abbandonato come un cane, no? Sì, è mio fratello che l'ha portato martedì in ospedale e da lì non l'ha più visto fino a che è deceduto venerdì, mezzo a tantissime altre persone in una situazione di panico. Perché il governo italiano non l'ha aiutata a tornare in Italia, scusa? Anche se i funerali non si può. No, non capisco perché il governo italiano o il Ministero degli Esteri, appunto, chi di come, non le ha dato una mano per ritornare in Italia. Perché partiva un aereo per Roma, sarebbe partito dopo una settimana, e a quel punto io avrei dovuto comunque fare la quarantena, perché non, quindi avrei dovuto fare la quarantena. No, era per capire, quindi è lei che non è poi voluta venire in Italia, perché... Beh, certo, a quel punto era inutile, diciamo. Era inutile. Ecco, ma qual è la sorte, diciamo, del corpo di suo padre a questo punto? Perché è anche questo curiosa la cosa, perché nessuno, i funerali non si possono fare. Che succederà? Allora, adesso stiamo aspettando una data per la cremazione. Non so se avete visto tutti quei camion militari che sono partiti e hanno portato le salme da Bergamo in un'altra città a cremare. Sì, ma c'era anche suo padre? In questo momento si trova ancora a Bergamo, non è stato portato. Sì. E stiamo aspettando una data per la cremazione, perché i forni crematori sono troppo pieni e non c'è più posto. Sì. Incredibile, ragazzi. Di conseguenza stiamo aspettando una data e quando avremo la data il funerale non si può comunque fare, perché è un'aggregazione di persone che non è ammessa. Dunque ci sarà una cremazione fatta, diciamo, in maniera anonima praticamente. Certamente, e poi dopodiché abbiamo deciso di aspettare quando si calmeranno le cose per fare un funerale come papà Giuseppe lo meritava. Certo. Senti Roberta, ma non aveva patologie. Ecco, papà, senti, no. Scusami se te lo chiedo, ma siccome patologie. Si discute in questi giorni soprattutto di chi muore, come muore, eccetera, eccetera, vecchi, giovani, che sono discorsi un po' che valgono per le statistiche, non valgono ovviamente per le persone che perdono i loro cari. Allora, penso che adesso i numeri parlino da soli, che non muoiono le persone che hanno già patologie, ma muoiono le persone sane. E ti assicuro che io da bergamasca in questi giorni sto vivendo una tragedia di tanti miei amici che come me perdono mamma, papà, addirittura sia mamma che papà se vivono insieme, persone sanissime che non hanno alcuna patologia, che sono sempre stati sane. Quindi anche questa cosa ci ha illuso tantissimo all'inizio, ci ha fatto prendere la cosa sotto braccio e ci ha detto ma sì, tanto muoiono solo le persone veramente anziane con gravi patologie. Non è assolutamente vero, e lo vivo tutti i giorni nel cuore di tutti i bergamaschi della Valseriana che perdono parenti, amici, zii, e sono persone sane. Annulliamo questa cacciata che penso che adesso i numeri le parlano da soli. Beh, insomma, i numeri ancora non lo dicono, però evidentemente, soprattutto in alcune zone, non è così. Tuo padre ha 72 anni, ha 72 anche 45 anni, che... è morta una signora nella bergamasca, sanissima. Sì. Senti una cosa, tuo padre aveva 72 anni e non aveva nulla, diciamo, cioè, no, assolutamente. Cioè, non aveva operazioni, no, problemi respiratori, qualsiasi cosa, no, non aveva niente. No, assolutamente, era una persona sana. Senti una cosa, ma tu sei anche molto arrabbiata. È molto importante questa testimonianza qua, perché abbiamo sentito fino a poco tempo fa qualcuno che invece diceva: ma tanto un anziano, anziano, è morto di coronavirus. No, ma nessuno ha mai detto vaffanculo agli anziani morti. Nessuno se l'è mai presa con gli anziani, perché qualsiasi cosa. Fai il falsario su di me, su queste cose così. Allora, ragazzi, volevo chiedere però a Roberto una cosa. Roberto, tu sei arrabbiata perché dici bisognava fare la zona rossa molto prima. Dunque, sei incazzata molto col governo, con chi doveva prendere una decisione, o no? Molto, molto, sono arrabbiata, ho fatto anche una petizione, la potete vedere sul mio Facebook, partendo dal governo, agli assessori comunali, alle fabbriche della zona, tutti dovevano unirsi per bloccare tutto. Se si fosse bloccato tutto, mio padre non sarebbe malato, e non sarebbe morto. E come mio padre, tantissime altre migliaia di persone, migliaia di famiglie come la mia non avrebbero sofferto un lutto così brutto da fare in casa da soli. Quindi tu dici non sono importanti i soldi in questo momento, perché c'è qualcuno che magari non voleva chiudere perché non vedeva la gravità del problema, oppure perché le aziende, alcune aziende magari dovevano rimanere aperte comunque per necessità, dico, però... Ma quei soldi adesso li perderanno 10 volte di più, perché non li hanno voluti perdere sul momento, senza vedere il futuro come un imprenditore dovrebbe fare. Hanno sbagliato, hanno fatto perdere la vita a tantissime persone, in più quei soldi li perderanno comunque, perché ormai è crisi mondiale e tutto cadrà, quindi siamo in guerra, cioè si vede che siamo in guerra, se per chi non l'avesse ancora capito. Senti, tu quindi che cosa diresti? Per forza chiudere. Che cosa diresti a un runner? Sai che c'è stata questa piccola polemica in questi giorni in Italia? Okay. Sì, no, puoi dire tutte le parole che vuoi, ovviamente. Che dice: io voglio farmi la mia corsettina, però non rinuncio perché il fisico, perché questo, perché comunque è importante, perché voglio prendere un po'. Come li definiresti questi qua? Coglioni, scusami, ma non ho altre parole, perché fino a ieri sono rimasti sul divano sdraiati e lamentandosi, e prendevano la macchina per andare a comprare le sigarette, e adesso sono tutti runner fisicati che non possono vivere senza una corsa. Ma ragazzi, ma siamo in guerra. Ma ancora la gente non l'ha capito, ma ancora la gente pensa di essere, ecco, qui si vede proprio il cinismo della nostra società, e siamo proprio arrivati all'individualismo, al pensare solo a se stessi, alla non condivisione, siamo proprio arrivati a una società di merda, scusate. Senti un po', ma l'ultimo ricordo che hai di tuo padre qual è? L'ultimo ricordo... che hai in mente di tuo padre, l'ultima volta che l'hai visto? Guarda, ho pensato da giorni, da quando era morto, impazzivo di notte, non dormivo, e l'ho trovato. Io e la mia bimba ci ha portato in aeroporto, 3 mesi fa, che è l'ultima volta che sono stata in Italia, ci ha lasciato in aeroporto, ci ha dato le valigie e ci ha salutato. Sì. Però è un bel ricordo bellissimo, che grazie a Dio, sai che impazzivo perché non lo trovavo, perché vuoi pensare all'ultimo momento che l'hai visto, essendo che io abito lontano, eccetera, non lo riuscivo a trovare nella mia mente. E quando l'ho trovato è stata come una liberazione. Ho il ricordo di lui in aeroporto che ci porta e saluta me, la mia bambina. Ciao Roberto, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Allora ragazzi, a voi smette, voi due di fare polemica. Questo fa polemica anche al telefono con una che gli è morto. Dai, il padre. Su, Davide. Questo fa polemica anche in un momento del genere. Su, quello. Anche in un momento del genere. Non ha mai detto, posso dirti. Davvero inopportuno. Hai detto posso dirti una cosa. Aspetta un attimo, però posso dirti una cosa. Allora, testimonianza importantissima. lui non ha mai detto nelle settimane scorse, ma tanto i vecchi per patologie muoiono. In un momento così una cosa falsa, vergognati. Riascoltiamolo. Scusate ragazzi, posso dirvi una cosa? Posso dirvi una cosa? Allora, che per adesso le statistiche dicono una cosa, questo è vero. Poi ciò non toglie che le singole questo è vero. Le singole persone poi possono, ma ho capito, ma l'Istituto Superiore di Sanità dice che muoiono soprattutto persone con una patologia. Testimonianze, ma che c'entra? Ma le singole testimonianze non fanno statistica, questo è chiaro, no? Poi nessuno dice che non muoiono persone senza patologie. È chiaro che muoiono persone senza patologie. Quello che disse tre settimane fa, due settimane fa, perché la cosa per la quale mi sono incazzato. Cercare di andare in culo, passi sopra il dolore di una persona. Basta, sì, bravo, è arrivato il buffone. Ma quanto piccolo sei di fronte al dolore di una persona che sta parlando. Occupati delle cose di cui ti sai occupare, cioè le mutande col buco. Occupati di quello, ragazzi. Morto di fama, David da Siena. Morto di fama. David da Siena, dai. David, sì, pronto? Dimmi. Luciani, mi sente? Ti sento. Io volevo rifare, buonasera. Mi volevo fare al discorso di prima di quel povero ragazzo, di quel ragazzo, insomma, preso a Firenze con scritto nel foglio: vada a comprare droga. Lei ha detto, capisce, insomma, Parenzo si è arrabbiata. Lo Stato permette tuttora, in questo momento, lo spaccio al cielo aperto di droga e non dice niente. Sì, sì, tra l'altro lo permette anche adesso, probabilmente perché ci sono cose più importanti naturalmente oggi, no? Piuttosto che pensare a persone che lo avrebbero fatto lo stesso. Ma adesso cosa fai? Non lo faceva prima bloccare gli spacciatori e chi compra la droga? Ti pare che adesso uno spreca poliziotti per bloccare quattro spacciatori alle stazioni, quelli che vede con tardo? Dai, su. È chiaro che non lo faceva prima e non lo fa adesso. Sì, però questi spacciatori sono tutti assembrati nelle panchine appiccicati. La fila dei ragazzi questo è vero. La droga. Ma scusa, Alberto, quando li vedi tu, non sono uno accanto all'altro. Io hanno guanti e mascherina, quelli di Padova addirittura. Sono professionisti. Assolutamente. Vabbè, David, a Siena non sarà così. Balla racconta a Niceriani, Arezzo o a Perugia. C'è chi da dove abito io, racconto quelli che vedo io. Ma lui ha detto Perugia tutti i giorni a prendersi la droga, cioè senza problemi. Io gli parlo da ex tossico, questo glielo posso dire tranquillamente, perché non questo un po' si era capito un po' che c'avevi avevi qualche dimestichezza nell'ambiente, per carità. Va bene, sì, tutto. No, perché poi vedo meglio di qualcun altro, insomma. Lo Stato permette tutto e poi si va. Ciao David, ciao. Non ha ragione, lui in fondo ha ragione, però voglio dirvi ragazzi, quelli che oggi scrivono anche un po' goliardicamente che escono a procurarsi la droga perché sono disperati, prima lo facevano lo stesso. Allora adesso per loro è una prigione doppia questa roba qua, no? Cioè, li vedi di più, non si possono. One Express, il pallet espresso. Vi presenta la Zanzara. Ragazzi, basta litigare voi due, basta. Non è bella questa tensione che c'è in redazione. La Zanzara è un posto di serenità, di tranquillità, di pace, di condivisione. Basta, basta. Questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. Eccoci. Comunque in questi giorni di quarantena la soddisfazione più grande è riascoltare i podcast di una settimana, due settimane fa e sentire tutte le cazzate di quel coglione di Gottardo. Mamma mia, che ignoranza. Sì, ok ragazzi, però vogliamo ricordare quando qualche settimana fa c'era Gottardo che diceva che c'era più probabilità di vincere al Super Enalotto che morire col coronavirus. Ma vaffanculo, va a Gottardo. Cosa? Quando? A mio discapito, capito? Tra poco chiamiamo Flavio Briatore. Allora, che ha una sua ricetta personalissima, così mi ha detto al telefono, su come punire quelli che rompono il cazzo andando in giro. Una ricetta personalissima firmata Briatore by Monte Carlo, from Monte Carlo anzi. Intanto in provincia di Ravenna una prostituta romena viene identificata dai carabinieri e denunciata per la violazione delle norme antiepidemia. La donna però si è difesa in questo modo, caro David: era in strada per esercitare, che è l'unica sua fonte di sostentamento. Adesso è abbastanza bizzarra questa cosa qua, perché effettivamente non ci può stare. Io vengo a lavorare, Gottardo va a lavorare, certo, a Radio Caffè con l'autobus, una mignotta, chiaro, lavora per strada. È vero che non si può circolare, diciamo, per a andare dalla mignotta. La differenza tra alcuni di noi e una mignotta è molto labile, tra le altre io cose. l'ho sempre detto. Siamo tutti puttane, diceva anche un fortunato libro della mia amica. Le autobiografie sono sempre utili, Gottardo, bravo. Le autobiografie sono sempre utili. E poi c'è il caso bravo. Incredibile, c'è sempre il caso incredibile di Castellaneta. Il signor Castellaneta è un paese, il sindaco di Castellaneta, che ha denunciato che cosa? Che un signore, un medico di un ospedale, medico anche importante di un ospedale, è andato in ospedale per 2 settimane ma tacendo sulla febbre. Cioè, voi vi rendete conto di quello che sta succedendo da quelle parti? Cioè, questo qua aveva la febbre, era andato a Milano, tra l'altro, sembra dalla figlia o a prendere la figlia e riportarla giù, è tornato con la febbre, è andato in ospedale per 2 settimane per 2 settimane e ovviamente lì c'è un'epidemia adesso di virus. Mamma mia, roba pazzesca. Chi c'è qua? Chi c'è? Ermelindo d'Avellino, Ermelindo. Poi uno come cazzo si fa a chiamare Ermelindo? Io sono in causa con mia madre. Beh, giustamente, ma dovresti fare un culo così a tua madre. Come hanno fatto a chiamarti Ermelindo? Mio nonno si chiama Ermelindo. Per carità, tutto il rispetto per tuo nonno, rispetto anche per chiunque, però, amico mio, Ermelindo è una condanna, diciamo la verità. Cioè... No, adesso mi fa comodo perché è facile da ricordare. Da ricordare, non da dire, però, come ti chiamo? Ermelindo. Giuseppe Cesta non mi chiama, mi chiamano Ermelindo, punto. È vero, questo è vero. Anche a me non piace il mio nome, però Ermelindo non si può sentire. Però comunque, bisogna mettere il nome provvisorio e poi uno se lo cambia eventualmente. Sì, quello pure è vero, non è male. No, niente, io chiamavo per dirvi, per parlare un poco della politica che sta qua, a netto di Crozza De Luca che esce in TV. Il pronto soccorso di Avellino oggi del Moscati ha iniziato a rifiutare i primi ammalati di Covid-19. La gente inizia a morire a casa, primo punto. Quello già succede al nord, amico mio. Fermo, il nord è un altro discorso, qua del sud non si parla. Oggi a Secondigliano, Scambia, Fragura e così via c'erano i mercati rionali. Lo ripeto, c'erano i mercati rionali. Due, se l'esercito non interviene adesso, interviene dopo. Perché stiamo parlando della zona urbana più densamente abitata d'Europa. Tu parli della Campania, di alcune parti della Campania? No, non parlo della Campania, io sto sui monti. Io sono in un paese che spazia 700 abitanti. E a te che ti frega allora? E sto parlando di giù, di Napoli. Ah, di giù, sì, certo. Dove si parte da Salerno e si arriva a Baia Domizia, 300 chilometri, senza soluzione di continuità. Tu dici, se arriva là è finita? No, già è arrivata. Ora devono fare due cose. Si espande, dico, no? No, perché ti ricordi? Vabbè, adesso dobbiamo essere ottimisti, non è che dobbiamo adesso pensare che sarà una strage. Secondo te ci saranno i morti per strada in Campania, questo è il punto. Ma quest'anno è più che sereno. L'unico vantaggio è uno solo. Per carità. L'unico vantaggio è uno solo. E il PD e 5 Stelle sono al governo, perché se era il contrario, cioè adesso al governo già c'erano i morti per strada, perché questi suonavano la fanfara per strada. Perché qua, oggi su 12 malati di Covid-19, 10 erano del 118. 10 sono del 118. Vatti a vedere i dati. Cioè, che vuol dire erano del 118? Non ho capito. Su 12 contagiati oggi ad Avellino, 10 erano operatori del 118. Ah, ecco, operatori del 118. Tra poco, il deputato Maraia, che sta isolato ad Ariano Irpino, che sta fermo lì, ha denunciato pubblicamente in video che le ambulanze ad Ariano Irpino, 80 contagiati, oggi è morto anche il parroco di Ariano Irpino, e le ambulanze ci mettono 8 ore per arrivare e per portare gli ammalati in ospedale. 8 ore! No, ma questo, cioè, voglio dire. Questo è al netto di quello che dice De Luca, che ha smantellato la sanità campana. Vabbè, adesso ha smantellato il governatore. Ma prima fosse la Svizzera. La provincia di Avellino ha chiuso 4 ospedali. Ho capito, ma quella la chiusura 4. Degli ospedali non è che significa smantellare, significa. Smantellata! Noi in provincia di Avellino abbiamo prima? 8 posti in terapia intensiva. 8, ma Avellino prima era come a Ginevra? Non è che prima era. Non è che prima fosse. Non lo so prima. Poi non voglio fare polemiche, 6 miliardi all'anno per quanto riguarda i migranti, sanità smantellata, c'erano delle priorità, Vabbè, Ermelì, ciao, d'abbraccio, ciao. Ciao. Mi sembrava molto addentro questo Ermelindo, questo Ermelindo. Sicuramente di area di centrodestra, mi è sembrato di capire. Sì, mi è sembrato di capire. Cose no, andava all'attacco, andava all'attacco. Anzi. Collegamento col signor Briatore? Telefoniamo? Squilli? Vai. Allo? Flavio? Ehi, hey, come va? Eccoci qui, come va? Tutto bene? Tutto a posto. Tutto dove bene. Sei? In casa? Blindato, sbarricato in casa? Blindato in casa. Non mi sembra vero di stare così tanto tempo in casa. Senti una cosa, in Italia si discute ancora di una possibile nuova stretta perché c'è troppa gente in giro, ma ti rendi conto che c'è ancora gente che va a fare un giro col cane, ma in realtà cioè, va 4 volte, 5 volte a fare la spesa, gente che va a correre, roba da pazzi. Ma vedi, una volta gli italiani per andare a comprare sigarette a 50 metri pigliavano la macchina, adesso tutti maratonetti, prima non si muovevano, divano, macchina, e adesso invece corrono tutti, è incredibile, e sono portatori di virus, sono dei delinquenti questi, perché sono portatori di virus, ma noi finché non facciamo, io c'ho dei video come trattava la polizia in Cina chi usciva di casa, li menavano. Cioè secondo te bisognerebbe applicare... Li devi mutare, li devi portare nelle caserme dei carabinieri, degli alpini, e una cauzione per uscire. 200 euro subito, se no qualcuno deve venire a pagare. Quei soldi lì vanno agli ospedali, perché sono dei deficienti. Questa roba qui dura 6 mesi se non ci mettiamo tutti d'accordo che dobbiamo stare a casa. Cioè tu dici che le persone vanno colpite nel portafoglio. Cioè o metodi cinesi, oppure metodi cinesi quelli brutali. Deve colpirlo nel portafoglio, ci sono le caserme degli alpini, li chiudi tutti lì e poi paghi una cauzione. Vieni a prendere, paga 300, 200, 400 euro. Finito. Chi paga subito? È una buona idea questa della cauzione. No, questa è buonissima. Cauzione è un'ottima idea. È un'ottima idea, ottima. Che scherzi. Cioè, Ma non nelle prigioni, ragazzi, nelle caserme. Però sai qual è il problema, Flavio? Che purtroppo le persone che escono oggi lo fanno a norma di legge. Cioè non è che stanno violando una legge. Abbiamo fatto delle cose talmente pasticciate, talmente generiche, forse per non dare... Che tu in realtà puoi uscire, puoi dire io sto andando a fare la spesa. In realtà ci sei andato 6-7 volte e alla fine ti sei fatto una passeggiata. Cioè il punto è questo, e non ci sono le norme. Una volta compri il caffè, la seconda volta compri il formaggio. Ma come era in Cina, no? Dovevi andare una volta alla settimana, o 2 volte a settimana, c'aveva un buono, consumato quel buono lì, non potevi più uscire. Finito. O ci mettiamo d'accordo che si chiude tutto. Ma ci sono ancora delle cose aperte, i cantieri sono ancora aperti, certi negozi sono... Lasciamo la filiera del food and beverage, dell'alimentare. Il resto è delle farmacie, logicamente. Sì. Tutto il resto, bisogna chiudere tutto. No, ma quello è sicuro. Cioè tu dici che addirittura siamo stati troppo morbidi in Lombardia, perché c'è una polemica che dice che in Lombardia bisognava chiudere prima. Poi molti industriali sono opposti. Io dico una cosa. Ti faccio un esempio. Quando io ero in Formula 1 c'era la McLaren che provava in qualche circuito, io gli mandavo 2 o 3 miei ingegneri per capire cosa facevano. Ma come? A spiare? Quando è successo il problema della Cina, se io ero ministro della sanità, avrei mandato qualcuno in Cina per capire cos'era sto virus. Sì. Perché alla fine siamo stati impreparati, perché nessuno ha capito la gravità di questo virus, io compreso. Non è così mandare le spie in Cina, ma non è così semplice. No, non sono spie, vai a nome del governo. Ma che cazzo di spie? Vai a nome del governo. No, ma certo, vai a nome del governo, vai là e a vedere le cose. Probabilmente gli esperti hanno anche scambiato informazioni, si sono scambiate informazioni sicuramente. Questo, cioè, tu vuoi dire, Flavio, che quando è arrivato il virus qui abbiamo fatto tutta una scelta politica. Conte che andava a criticare il nord dove c'era la Lega, si è giocato così perché nessuno sapeva esattamente la gravità di questo virus. Tu hai paura personalmente? Certo che ho paura. Cioè è normale avere paura? Ma io credo di averlo già fatto. Ma che ti sei sentito? Ho avuto la febbre, sono stato male, però anche l'altra settimana che... Ma non hai fatto tamponi, no? No, non ho fatto, perché quando io l'ho fatto era gennaio, questo virus qui non era ancora nominato, non era ancora battezzato. Però io voglio capire una cosa, anche il nostro amico comune Porro insiste molto sui pericoli di una dittatura, i pericoli della libertà che è limitata. Cioè io gliel'ho detto pure, in questo momento sono tutte cazzate, cioè nessuno... Tutte cazzate. Cioè nessuno pensa di trovarsi poi fra un mese, fra 2 mesi con i carri armati per strada. Ma per vedi, tutti tirano la giacca. Ad esempio, quando c'è stata la partita, perché poi nessuno ne parla, quando c'è stata la partita Atalanta-Valencia, Valencia, ti ricordi c'era la discussione a porte chiuse, eccetera, eccetera. Sì. La Lega Calcio, non la Lega, la sì. Lega Calcio e Confindustria volevano tenere aperto sì. E hanno fatto la partita. Molti di questi ammalati di Bergamo, ma moltissimi, erano presenti a quella partita di calcio. Sì, ma lo dicono adesso che è stata quasi la partita zero. Senti, a proposito di calcio, secondo te bisogna scordarsi di finire la stagione, basta chiacchiere, troppa gente che litiga? La priorità è la salute, sì. Tutto il resto non conta niente. In questo momento c'è solo una priorità, fare stare a casa le teste di cazzo che continuano ad andare in giro. Per cui questi che parlano di riaprire il campionato, eccetera, quando si... aprire il campionato? Noi dobbiamo uscirne, ma vi rendete conto che qui parliamo di altri due mesi? Dato che certi non capiscono, li devi prendere e fargli una multa di 200 euro. Se non c'hanno i soldi li porti nelle caserme, finché qualcuno non viene a pagare stanno lì. Ti garantisco che non escono più sti qui. Senti, ma abbiamo una classe politica adeguata secondo me adesso oppure sono dei cialtroni? Io vedo solo che non c'è anche con questo decreto c'è nessuno che si lamenta. Cioè è un decreto che fa fallire metà Italia. Io non vedo nessuno che si lamenta. Fa fallire, però è il virus che fa fallire, non è che è il decreto che fa fallire, magari non è adeguato. Sì, magari non è il virus più il decreto non adeguato è il package. Va bene, ciao Flavio, grazie, abbracci, avanti tutta, ciao. La Zanzara. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudete le assi merdose. Togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Queste le mogli che fanno la musica rap, trap, trup, trap, una raccia aperta, che cazzo ti fa un male di cocci, prima era musica, era melodia, musica rap, trap, trup, trap, rap, 2020, rap. Anno bisesto, anno questo. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Ruben Sosa, bruciamo fiori, no rose cose, mamma stai tranquilla, mamma sosa, erda fre, nuova a me, sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzole. Mai pia, fai una se, blow job, nuova squad, mai una job, mai una job. State ascoltando musica giovane. La Zanzara. Mi scappè, ma stai shy, fai una se, tagliale, giroppia, basta il fragile, ma 5 col fra che già giroppia. Tipo quel tipo di tipa fra, tipo col tipo di tipa fra, ti pario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo, la tipa del tipo fra. Prima la musica era melodia, passione. Cruciali, hai rotto il cazzo con sti cani, se non ti piacciono i cani non rompere la minchia e lasciali vivere in pace, coglione, te e quegli altri due che hai vicino. Cruciani, di a quel cretino di Bologna che ha chiamato ieri con il cane e che dice che chi ha cani di 30 kg non possono cagare in casa, di a quei cretini che se non hanno una casa con il giardino, i cani di 30 kg se li possono mettere su per il culo, egoisti di merda. Ho bisogno di Sorca. Beh, amico mio, credo che Richard Benson, come dire, no? Sia tutti noi in questo momento in generale, no? Cioè, sempre, non solo in questo allora, momento. Allora, Porro scatenato contro i cagasotto dei parlamentari, senti, che non vogliono riunirsi in Parlamento. Altro grande tema che abbiamo già affrontato, ma che torniamo ad affrontare. Parenzo è convinto che possono fare come al Parlamento europeo, cioè dire fare le video, collegarsi via video. Ci sarà un voto? Sì. No, ma voteranno. Sì, posso dirti a fine una marzo, cosa. Il Parlamento europeo voterà le misure prese dalla Commissione. Ma va bene, d'accordo. Lo possono però fare 750 deputati sparsi in tutta Europa? Ma è diversa la roba, appunto perché sono sparsi perché in tutta Europa diversa? E sarebbe complicato farli arrivare ma tutti nello stesso posto. No? E non è complicato da Milano uno che magari è in quarantena venire a ma votare a Roma? Se sei in quarantena, sei in quarantena, no? È un altro discorso. Se sei in quarantena, allora sei in quarantena. Devi garantire anche a quella persona la possibilità di votare. Se non è malato ed è a casa in quarantena per la tutela della salute di tutti, ma se da puoi casa lavorare, ha diritto di votare. Se poi il parlamentare ma è un altro anche discorso di Fratelli d'Italia, ma quello o della è un altro Lega discorso in quarantena, allora ha diritto di votare. Scusami, se puoi lavorare per via telematica, fai votare per via telematica quelli in quarantena e fisicamente quelli che possono andare a Roma. No, anche perché tutti. C'è un controllo. Chi mi dice che non puoi controllare cosa voto e invece non c'è la segretezza del voto, per esempio? Tra l'altro, il Parlamento europeo, caro mio, quello riguarda anche se lo fanno al Parlamento europeo, perché non lo puoi fare qua. Non si capisce. Ma vi sembra una cosa normale che oggi la supplenza, come dice qualche giornale, sia tenuta dal Presidente della Repubblica che chiama i governatori delle regioni e che fa i suoi affari? Ma vi sembra normale che questi cagasotto dei nostri parlamentari oggi non si presentino e non facciano da due settimane una riunione in Parlamento? Chi se ne frega se prendono il coronavirus? Me lo sono preso io, se lo possono prendere loro. Se non hanno problemi di immunodeficienze, se non hanno più di 80 anni, andassero in Parlamento con la mascherina e facessero il loro mestiere, come lo fanno le commesse dei supermercati e come lo fanno gli operai nelle fabbriche per farci mangiare, mentre i parlamentari, zitti come dei sorci, sono due settimane che non si riuniscono. All'attacco, un gigante. È morta oggi. Credo una commessa di un supermercato, sì. Credo nel bergamasco, nel bresciano o nel bresciano. Porca la gran puttana, vai in Parlamento e vota, riunisciti con tutte le sicurezze del caso e non rompi i coglioni se è necessario. Se avete deciso che invece non è necessario il Parlamento in questo momento, va bene, no, è fondamentale il Parlamento. E allora basta, è andate in Parlamento, è fondamentale. Basta. Ma se come è altri lavori si può fare da casa, è meglio ridurre lo spostamento delle persone, anzi di centinaia di persone, diciamo anche perché centinaia, devi ridurre su. No, Mario, attorno al parlamentare si muove tutto un esercito di persone, peraltro che stavolta non si muoverà, appunto. E in questo momento io dico tutto, volete tutti quanti chiudere l'Italia, volete che il governo decida tutto, ma volete affidare tutti quanti voi a Casalino e a Conte la gestione di questo paese, o pensate che un Parlamento possa stare lì a controllare e invece di starsi a cagare sotto come fanno i parlamentari che non si riuniscono da due settimane? Ve lo chiedo e me lo chiedo. All'attacco! Uno persino dei pochi coraggiosi. Persino Vespa, persino Vespa all'attacco sul fatto che i parlamentari, senti qua. Per andare in onda Porta a Porta e tutti gli altri telegiornali, tutte le altre trasmissioni di approfondimento della RAI e delle televisioni commerciali, centinaia di giornalisti, di produttori, di tecnici, di registi e quant'altro lavorano giorno e notte con la mascherina e i guanti, rispettando le distanze di sicurezza, ma vanno avanti. E questo succede in centinaia di migliaia di uffici e di fabbriche in tutta Italia. Sì, perché allora il Parlamento deve lavorare soltanto una volta a settimana? Il Parlamento è l'ospedale dell'Italia. L'Italia già stava malissimo prima del coronavirus. Adesso è in terapia intensiva e quindi i suoi medici non possono andare a visitarlo soltanto una volta alla settimana. Perché i casi sono due. O il Parlamento non serve, e questo sarebbe terribile, o il Parlamento serve e non va a lavorare, e questo è ancora più grave. Beh, Claudio da Roma, vai Claudio. Il Parlamento deve lavorare, ma ci mancherebbe altro. Ferma, però, Vannamarchi, senti Vannamarchi? Vannona Marchi, sentiamo subito, ce l'abbiamo? Vannona, ce l'abbiamo, grandissima, va all'attacco, vai. Allora, ecco. Hanno detto che dobbiamo stare in casa, cazzo! E voi, tutti, certo. Dove siete? Fuori? Ma non vi vergognate! No? In 10 giorni io sono uscita 2 volte per fare la spesa. Meno male. Ho visto solo vecchi in giro. Vecchi! Con le sparte! Esatto. Che andavano con le stampelle! Ma dove cazzo andate? Io non è che impazzito. Ma cosa volete mangiare? Anche il supermercato? Io la stampella in testa. Ma te ne rendi conto o no? Cioè, ti rendi conto o no? Cioè, vecchi, poi, perché lei che cos'è? Scusa, non ho capito. L'altro giorno ho visto un vecchio con le stampelle. E sapete cosa ho fatto? Fatto? Ho tirato un calcio a quelle stampelle, gliele ho tolte e gli ho detto: mi devi dare 1000 euro. Ma perché? D'accordo? Perché? Una ladra, perché è così, è aggressiva. D'accordo? D'accordo? Perché praticamente gli ha tolto le stampelle. C'era una vecchia che faceva la spesa, le ho tirato un calcio, la vecchia è caduta e gli ho detto: la vuoi la stampella? Sono 1000 euro. D'accordo? Però dici, a me, dici com'è possibile, no, questa roba qua. Donna incredibile, incredibile. Ma non vi vergognate. Ma perché? Dovete rimanere in casa. Ma tu ti devi vergognare. Mi sto incassando di brutto. No, è tornata, okay. È tornata a battagliare. Porca, è tornata mia, a battagliare. Allora ragazzi, avevamo prima chi e l'adorabile figliola, dov'è l'adorabile figliola? Abbiamo la con noi una persona nobile. Una persona che si sta reinventando un lavoro. Sapete che sono molto attento al mondo della prostituzione, no? Allora, lei la conosciamo, Alessia Nobile, 40. Una delle transessuali più famose non solo della Puglia, vedi? Ma dell'Italia intera. Buonasera Alessia, ciao Alessia. Ciao a tutti, come va? Beh, amica mia, qui si potrebbe stare meglio, soprattutto in Lombardia, che come sai è l'epicentro Alessia. Di tutto. Sì, Alessia, sì. Fino a un mese fa, poco più di un mese fa, lei era a Sanremo a prendere mazzetti di uccelli. E adesso sì, tutti sì, purtroppo dal 5 marzo la mia vita è cambiata. Dal 5 marzo è cambiato tutto. Senti, ma adesso come ti sei organizzata? Cioè, praticamente molte persone che abbiamo interpellato nei giorni scorsi del tuo mondo, del mondo della prostituzione, sì. Dicono: vabbè, noi alla fine qualche cosa facciamo ancora, qualche incontro lo facciamo. La gente esce dal lavoro, tu no. No, perché vabbè, qui è tutto bloccato a Bari, ma a prescindere preferisco salvaguardarmi. Mi sono reinventata e lavoro in CAM. Ah, ottimo, quindi in CAM. Lavoro esclusivamente in CAM questo periodo, ma sono pronta a tornare alla ribalta appena tutto vabbè, sarà questo, finito. Questo è chiaro, ma scusami Alessia, allora tu e il tuo gingillo che hai sempre detto essere sì. Un gingillo notevole, sì, lavorate, sì, sì. Lavorate praticamente in CAM, cioè praticamente sì. La gente paga per vederti che cosa fa. Praticamente come io mi spoglio, sì? Faccio gioco di ruolo anche in CAM, mi pure, spoglio, cioè gioco di ruolo di che tipo? Cioè nel senso che se uno mi chiede di fare l'infermiera mi espongo come infermiera o come io ho i miei costumi qua. Ma anche la mascherina, utilizzato. Anche la mascherina, le persone costumi. Vogliono. Sì, anche la mascherina. All'inizio, quando ancora non c'era la reclusione, sì. Io ricevevo e alcuni venivano in mascherina, io col camice, in lingerie sexy bianca sotto, facevo la prova tampone anale. Era così, così facevi il tampone anale. Ah, facevi il tampone anale e loro mamma con la mascherina? Loro con la mascherina rimanevano, poi io li penetravo, ovviamente. Chiaramente, quindi, grande penetrazione ed era il tampone anale. Tortura, e questa sì. Volta in CAM? Invece adesso che esclusivamente in CAM giochiamo con masturbazione, con dei vibratori o c'è uno strip, lo spogliarello. Senti, ma scusa, ma come avviene il pagamento di queste cose qua? Allora, metà, cioè 50 su con ricarica Poste Pay prima di accendere la CAM, l'altra 50 se loro vogliono che io continuo a se mi spoglio, mi masturbo, sì. Al momento sempre con versamento Poste Pay che comunque io con l'applicazione riesco subito a verificare. Cioè praticamente la prestazione è sempre 100 euro, giusto? Sempre quello è, però c'è l'anticipo di 50, cioè, mentre quando incontro fisicamente è tutto al momento, invece certo. Qui c'è comunque un anticipo. Comunque ti sei attrezzata in questo modo, vedi, da un certo punto, sì, di, sì. Vista, da un certo punto di vista, caro Parenzo, incontriamo due tipologie di prostitute, certo, diciamo. Come no. Quelle irresponsabili, come per esempio Efe Ball, che abbiamo, quella che tu definisci no, irresponsabile, no. Che continua ad incontrare, vuole ancora incontrare, o altre persone che ci hanno detto, beh, noi comunque incontriamo lo stesso, invece c'è Alessia Nobile, che dice no, io non incontro fisicamente perché non voglio rischiare. No, non voglio rischiare perché sono pronta per tornare alla ribalta, capito? E si è attrezzata via CAM. Ma scusa, è, sì. È come i parlamentari europei in un certo sì, senso. Sì, da un certo punto di vista sì, è vero. Sì. Sì. Scusami un attimo, tu praticamente quali sono le prestazioni che ti chiedono? Cioè i clienti che cosa chiedono che tu faccia di più? E soprattutto spogliarello, loro... spogliarello, masturbazione. Ma pensa. Sì. Rapporto orale con vibratore, cioè nel senso che simulo ma che senso ha pagare senso ha pagare per servizi che ho gratis ma su Pornhub Premium? Dicono, è come se stessi guardando un film porno. Ma certo, ma è diverso, ragazzi. Ma quell'altro è gratis. Ma certo, perché soprattutto saranno i clienti abituali, immagino, no? Sì, ma in alcuni casi loro dicono: io so che tu esisti, cioè il film porno ti mette di fronte persone che tu non hai mai visto. In questo caso loro mi hanno conosciuta fisicamente, quindi sanno che sono veramente io dietro. Dunque, la maggior parte delle persone che in questo momento hanno a che fare con te o che pagano per questi servizi sono persone, sono tuoi clienti abituali, immagino. Ci sono anche i nuovi, che comunque. mi contattano tramite WhatsApp e spiego e accettano e accendo la cam. Senti, ma in questo quindi, modo quanti ne fai più o meno al giorno? Più o meno? Ma guarda, questo è più su appuntamenti, cioè uno mi dice la mattina, mi fa la ricarica, ci vediamo alle 5 di pomeriggio su Skype e io accendo, oppure sto in questi giorni sempre online dalle 17 alle 20, chi al momento mi chiede di voler appunto... Ma quanti ce ne sono stati? Quanti ce ne sono stati più o meno? Cioè, Al giorno, quanti ne riesci a fare? 3, 4. Poi, sì, ovviamente è diverso da quello che... Beh, certo, guadagni meno, anche tu hai perso dei soldi, no? Però immagino anche delle spese inferiori, questo è vero. Molti siti io non li sto attivando. Ma non c'hai qualcuno che ti mantiene, per esempio? Non c'è nessuno? No, appunto, stavo aggiungendo questo. Poi ci sono comunque i miei fidanzati, perché sono tanti, che mi danno dei regalini, prendere nulla. Cioè, delle persone... Certo, delle persone che sostanzialmente è una multiproprietà, uno è fidanzato la prima settimana del mese. Mi fanno ricariche guardando il telefono, il sesso telefonico. Sì, ma poi è una specie di reddito di cittadinanza, insomma, cioè possiamo dire. Sì. Sono persone che la mantengono, amici che ogni tanto vanno come clienti e che poi la mantengono, danno dei soldi. Sì. Questo mi sembra civile. Sono meno faticata, cioè io sto tranquilla a casa, non ho rapporti fisici. Senti, ma costa di più, per esempio, che ne so, tu in un rapporto, cioè cioè, arrivi fino alla fine, tu ti masturbi fino alla fine, riesci, cioè quello costa di più in calma, sì, ovvio, 50 in più, 50 mi danno prima, 50 dopo, 100 compreso. Loro non vogliono che io raggiunga l'orgasmo, va bene 80, quindi mi fanno soltanto 30, capito? Ah, ho capito, cioè diciamo la tua venuta, diciamo così, costa di più, questo è il punto. Costa 100, tutto il rapporto è 100, il classico. Comunque ragazzi, sei riuscito a sfangarla anche, cioè, più o meno... Sto meno stressata, sto più tranquilla, mi sto rinvigorendo, sto tranquilla a casa, pochi rapporti, mi cura. Anche a te mancherà, scusa, che tipo di vibratori utilizzi? Anche notevoli, diciamo, come... Sono la gente che cosa vuole, anche loro che fanno, per esempio, anche loro ovviamente si masturbano dall'altra parte della telecamera. Sì, anche loro si masturbano. Si infilano. Io comunque ricevo in mascherina, cioè ho la mascherina agli occhi. Certo. Vabbè, Alessia, ti abbraccio. Ciao, bacio, ciao tesoro. Ciao. Come ci si ricicla ai tempi del coronavirus, ragazzi? È fatta. Italiani. È fatta. Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterceli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Ma non vi vergognate, dovete rimanere in casa.